adesso dopo la tempesta che ti ha stracciato da questa terra, adesso che le acque si sono calmate e tu sei altrove oltre ogni guerra. Lasciami dire Antonio, fratello di sangue e di penna, in questo spazio silenzioso dove correvi come una renna, tuo alveare segreto da cui emanavi eco e poesie, le tue foto, la tua luce, il tuo mare, la tua voglia di vino e di sale. Lasciami dire Antonio che di solitudine si muore, dovrò adesso affrontare la tua assenza, il tuo partire. Scrivevi su pareti bianche parole, parole, parole, ed ogni angolo di questa stanza io sento ancora respirare il tuo cuore. Sarebbe bello che questo spazio non diventi una tomba. Il tuo corpo giace di fronte al mare, ma è qui la tua anima, il tuo amore. Lasciami dire Antonio, lo sento, per questo ti scrivo. Mi mancheranno le tue risate, il tuo non credere in Dio. Sono stato fortunato a conoscerti, fratello di sangue, di basilico, di menta. Ti ricordi quando mi mangiavi il cervello? Lasciami dire Antonio che di solitudine si muore, dovrò adesso affrontare la tua assenza, il tuo partire. Scrivevi su pareti bianche parole, parole, parole, ed ogni angolo di questa stanza io sento ancora respirare il tuo cuore. Il sangue nostro scivola in terra e fa nascere alberi di cuccagna. Mi avevi invitato a pescare le nuvole e pezzi di mare. Antonio, fratello bello, è solo l'inizio della nostra avventura. Non dimenticarti mai del nostro patto che scatena la luna. Parlami perché io so parlare, ascoltare ogni inverno. Bastardo pescatore, sono sicuro che ora stai ridendo. Lasciami dire Antonio che di solitudine si muore, dovrò adesso affrontare la tua assenza, il tuo partire. Scrivevi su pareti bianche parole, parole, parole, ed ogni angolo di questa stanza io sento ancora respirare il tuo cuore. Lasciami dire Antonio che di solitudine si muore, dovrò adesso affrontare la tua assenza, il tuo partire. Scrivevi su pareti bianche parole, parole, parole, in ogni angolo di questa stanza io sento ancora respirare il tuo cuore.